Ciao a tutte e tutti, questa puntata doveva essere diversa da quella che sarà, ma il 23 gennaio, pochi giorni fa, è deceduto un grande artista africano, sudafricano, jazzista, militante anti-apartheid, e quindi abbiamo pensato che gli dovevamo fare un omaggio. Sì, il 23 gennaio scorso ci ha lasciato Hugh Masekela, brother Hugh Masekela, come veniva chiamato in tutte le township, in tutti i quartieri, in tutte le location nere del Sudafrica. E appunto, come detto precedentemente, un grande musicista, un virtuoso della tromba e del flicorno, ma soprattutto un campione anti-apartheid. Durante tutta la sua vita, la sua traiettoria musicale, sociale e politica, non ha mai smesso di combattere contro il regime dell'apartheid, tant'è che fino da giovane, all'età di 22 anni, si trasferì negli Stati Uniti, proprio dopo il massacro di Sharpeville. Vi rimase per un certo periodo di tempo e vi si trasferì soprattutto perché per lui, che era cresciuto al suono del jazz, aveva cominciato fin da bambino, dall'età di 8 anni, a suonare la tromba, e quindi successivamente, fin da piccolo, all'età di 12-13 anni, aveva iniziato a fare i primi passaggi, le prime note jazz. Quel periodo, del periodo jazz negli Stati Uniti, come lui stesso ha detto, era importante per lui. Ci identificavamo con il jazz perché a quei tempi il jazz mostrava l'eccellenza di un popolo che era stato schiavizzato e discriminato. Dizzy Gillespie e Miles Davis non erano amati dall'establishment occidentale, era gente nera che non si faceva raccontare balle. E questo durante tutto il periodo, da metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 60. Poi capì, dopo diciamo, il riflusso, dopo la repressione che subivano sia i movimenti e conseguentemente anche i jazzisti in generale, la musica nera, ritornò in Africa e cominciò appunto a comporre insieme ad altri artisti africani, e soprattutto cominciò, diciamo, a girare per l'Africa, non potendo appunto risiedere in Sudafrica proprio a causa del regime dell'apartheid. Ma facciamo un passo indietro e diciamo, ripercorriamo la sua vita fino al momento delle prime incisioni. A 14 anni, dopo aver visto il film Chimere, appunto decise di suonare la tromba. Era un film in cui veniva, diciamo, c'è la biografia di Bis Beiderbecke, un grande del jazz statunitense, e gli fu donata una tromba da Trevor Alderston, un noto critico del regime dell'apartheid, che operava in particolar modo a Soweto, nell'area di Soweto. Successivamente entrò nella banda municipale di Johannesburg, e negli anni successivi suonò in numerose orchestre jazz sotto la direzione di musicisti affermati, fino a che nel 59, dopo aver interpretato tra l'altro il celebre musica King Kong insieme all'altro astro nascente, la musica sudafricana Miriam Makeba, e tra l'altro successivamente divenne la moglie, si sposarono Miriam Makeba e Hugh Masekela. E quindi, dopo essere stato nel cast di questo musical King Kong, fondò un gruppo musicale chiamato prima Jazz in Africa, e poi, con sempre gli stessi componenti, cambiò il nome in Jazz Pistol, e i componenti erano conosciutissimi allora e ancora più conosciutissimi in seguito: Abdullah Ibrahim, Kippie Moeketsi, Makai Ansoko e Jenny Gerze. Le Pistols furono il primo gruppo jazz sudafricano a incidere un long play, un LP, e i loro concerti a Johannesburg, Città del Capo, facevano i pienoni sostanzialmente. Il 21 marzo 1960, in seguito agli eventi sanguinosi culminati nel massacro di Sharpeville e successivo inasprirsi del regime dell'apartheid, convinsero Masekela ad andare via, diciamo, vista l'impossibilità appunto di continuare a fare musica in Sudafrica, e nello stesso momento a a impegnarsi, almeno da un punto di vista sociale, contro il regime dell'apartheid. E noi abbiamo scelto due brani proprio del primo periodo, quello in cui formò, insieme agli altri che abbiamo già detto precedentemente, i Jazz in Africa e poi successivamente i Jazz Pistols. E quindi vi facciamo ascoltare il primo pezzo che abbiamo scelto, è 12 times 12. Thank you. ricordiamo i nostri social, il sito wombat.noblogs.org dove ascoltate la diretta e potete scaricare o ascoltare i podcast di tutte le trasmissioni. Tra l'altro è iniziata una nuova trasmissione da un paio di settimane, la rassegna stampa. Controllate, ascoltate, scaricatevela perché ne vale la pena. Il profilo Twitter della radio, twitter.com/radiowombatfi. Vi ricordo che URU ha anche un proprio profilo Twitter, quindi se volete rimanere aggiornati su cosa succede in Africa, seguiteci, è URU-RW. E poi per comunicare con la radio, posta wombat @insiberia.net. Sì, è un comunicato, diciamo, 68 Rewind si riferisce all'iniziativa che si terrà a Firenze il 30 gennaio 2018, cioè appunto martedì prossimo. Questo perché il 30 gennaio 1968, alla fine di una manifestazione di protesta, gli studenti universitari e medi organizzarono un sit-in in piazza San Marco a Firenze, mentre una delegazione rappresentante di tutte le facoltà saliva dal rettore a presentare un documento di protesta. All'improvviso le forze nell'ordine presenti fecero partire una carica che provocò contusi e feriti gravi. Agenti in borghese manganellarono anche gli studenti e si erano recati in rettorato. Gli studenti reagirono velocemente. Entro il giorno seguente le facoltà furono tutte occupate. È l'inizio, diciamo, del 68 a Firenze. La data può di fatto segnare il consolidarsi un movimento studentesco fiorentino che avrà una lunga vita in parallelo con il lungo 68 che vide altri soggetti sociali entrare in scena. A distanza di 50 anni, il 30 gennaio 2018 l'Accademia di Belle Arti di Firenze e l'Archivio il 68, sempre in Firenze, organizzano una giornata che permetterà di rivivere e visualizzare l'esperienza del 68 fiorentino dal titolo 68 Rewind, percorsi in realtà aumentata. L'iniziativa prende il via alle 9.30 presso l'Accademia di Belle Arti in via Ricasoli 66 a Firenze, con una mattinata dedicata all'Accademia prima e durante e dopo il 68. Dalle 12 inizia un percorso su luoghi significativi sempre del 68 a partire proprio da Piazza San Marco, dal rettorato e dalla mensa universitaria, e durante il percorso, come approfondimento di quanto narrato in modo orale, si potrà utilizzare il proprio smartphone per geolocalizzare tramite approfondimenti tematici i luoghi visitati. Coordinano l'iniziativa Adriana Dadà e Tommaso Tossi, promotori degli stage pluriennali, hanno dato vita al progetto. A partire dal 30 gennaio, tutti i materiali, foto, testimonianze e documenti relativi alla ricerca, che è vero un po' un work in progress sostanzialmente, saranno visibili in un sito web, e cioè www.edueda.net/68, che continuerà ad essere implementato con altri luoghi e altri materiali già disponibili. Quindi vi ricordiamo il 30 gennaio prossimo dalle 9.30, ma anche per chi non ci può essere alle 9.30, anche alle 12 la partenza appunto del percorso su luoghi significativi del 68 fiorentino. E torniamo in Africa, specialmente in Kenya, in un luogo particolare, il lago Naivasha, che si trova a meno di un'ora di distanza da Nairobi, ad un'altezza di 1884 metri, in una zona geologica che presenta una combinazione di rocce vulcaniche e depositi sedimentari. Questo lago è alimentato dalle acque perenne dei fiumi Malewa e Gilgil, nella zona più alta della Rift Valley. Quando si arriva, il paesaggio sembra un paradiso, o forse è meglio dire lo sembrava. Prima, dalle rive rigogliose di acacia gialla, nell'acqua cristallina si potevano vedere pesci e anche gli ippopotami. E guardando verso il cielo si ammiravano centinaia di uccelli, soprattutto il fenicottero dalle piume rose, che emigrava dal lago Nakuru, sempre in Kenya, e verso appunto dal lago Nakuru, poi ritornava verso il lago Naivasha, e farfalle multicolori. Il lago era il mezzo di sostentamento per centinaia di pescatori e forniva l'acqua alle comunità di agricoltori. Ma già nel 2015 il lago e la zona circostante erano irriconoscibili. rose, enormi serre ovunque, nessuna farfalla e nessun pesce. Un sacrificio in nome dello sviluppo. Il lago e la zona circostante erano state trasformate in un inferno. Certo, lo sviluppo è importante, ma a quale costo? Il modello di crescita del libero commercio si basa sull'ipotesi che il mercato, promosso dal libero commercio, appunto, sia il mezzo più efficiente per distribuire le risorse dal mondo. Ogni nazione deve cercare di specializzarsi nella produzione di materie prime e servizi in cui è maggiormente competitiva. Ma il libero commercio è un'invenzione. Non è mai esistito nemmeno durante il tanto lodato periodo commerciale inglese del XIX secolo. La nazione che per prima ha sfidato questa invenzione è stata l'America. Subito dopo l'indipendenza dall'Inghilterra nel 1776, infatti, lo slogan era: non vogliamo coltivare cotone e tabacco per sempre e importare tutto il resto dei vostri prodotti. Gli americani lo dicevano agli inglesi: vogliamo diventare anche noi una nazione industrializzata. Tra il 1820 e il 1870, in 50 anni, gli Stati Uniti hanno eretto barriere contro le importazioni dall'Inghilterra e hanno iniziato la propria rivoluzione industriale. L'Africa è indipendente da quasi 60 anni e continua a esportare caffè, cotone e fiori, importando praticamente tutto il resto, compresi i prodotti agricoli. Nei grandi negozi di Nairobi si possono comprare cosce di pollo surgelate e fagioli scatola provenienti dall'Europa. Questi prodotti, ampiamente sovvenzionati, sono in concorrenza con i produttori keniani a cui sono negate le convenzioni dalle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In pratica si tratta di una guerra asimmetrica tra le grandi aziende europee e i piccoli agricoltori keniani, ed è lo stesso per tutto il resto dell'Africa. Tutto questo è immorale e, secondo le convenzioni degli Stati Uniti, è anche illegale. E ritorniamo a Yukma Sekela, che appunto ci ha lasciato pochi giorni fa, e abbiamo ascoltato precedentemente 12x12 con il gruppo Jazz in Africa, una sorta di gruppo informale che appunto, come abbiamo detto, successivamente, l'anno successivo, nel 59, si trasforma in Jazz Pistols. Sono quasi gli stessi componenti, ma ne manca uno. Ma ecco, vi diciamo appunto alle componenti, cioè al sassofono e al clarinetto Kippy Moeketsi, al trombone Jonas Gwanga, al piano Dollar Brand, e poi assumerà il nome di Abdullah Ibrahim, e appunto al fricorno e alla tromba Yukma Sekela. Una formazione che esprime una nuova modernità del jazz sudafricano, da un lato in sintonia all'undimento e le inquietudini dell'art bop d'oltretanto, ma dall'altro come una musica ancora più dura, perché ho il riflesso del drammatico inasprimento della politica dell'apartheid. E vi facciamo ascoltare un altro pezzo, un pezzo proprio come jazz epistole, si intitola Schoolery Department. Thank you. Appunto era Schuyler Department, i Jazz Pistols, di cui il leader alla tromba era appunto Hugh Masekela, che dopo appena un album prodotto con i Jazz Pistols si trasferisce negli Stati Uniti, ma appunto dopo alcuni anni, nel 68 insomma, che è l'anno dell'omicidio di Martin Luther King e dei riot di Chicago, Masekela si rende conto, si accorge che gli Stati Uniti assomigliano troppo al paese da cui era venuto via. Incide un album molto politico dedicato ai Black Panther, che la distribuzione che precedentemente li aveva distribuito gli album, gli LP negli Stati Uniti, fa passare volutamente inosservato e quindi ritorna in Africa. Nel 73 a Lagos, dove è ospite per un mese appunto di Fela Kuti, e successivamente tra il 75 e il 77 con alcuni musicisti del Ghana realizza album pionieristici dal punto di vista della musica afro, diciamo, una sorta di afrobeat virato jazz. E in quel periodo compone alcuni dei suoi pezzi più importanti e più conosciuti, fra cui in particolare Stimela, in cui Masekela, che è nato in una città mineraria, descrive le condizioni di esistenza di chi lavora nelle miniere del Sudafrica. Stimela significa appunto coal train, che è il treno del carbone, insomma, sono questi treni composti da questi vagoncini che anche prima si vedevano alcune parti dell'Italia in cui appunto c'era miniera di carbone e che stanno appunto a significare tutto il dolore, diciamo, e nello stesso momento la rabbia per le condizioni imposte alla popolazione nera nel regime dell'apartheid. È un pezzo lungo, ma ve lo facciamo ascoltare per intero, è Stimela, Coltrane, Hugh Masekela. There's a train that comes from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland. From all the hinterlands of southern and central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth, when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone, or when they dish that mishmash mash food into their iron plates with the iron shovel, or when they sit in their stinky, funky, filthy, flea-ridden barracks and hostels, and they think about the loved ones they may never see again because they might already have been forcibly removed from where they last left them, or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin. We are told they think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the Gatling and the cannon. And when they hear that choo-choo train, a chugging and a pumping and a smoking and a pushing and a pumping, crying and a steaming and a chicken and a wah, wah, they always curse and they curse the coal train. The coal train that brought them to Johannesburg. stimela sihamba ngamalahle siveleta la kupayi sangela hlawa kuqa hey babe what is this ubamalahle so Stimela Si hamanga malate Si mele tala kupa Helele sangina tawa kuta Hey babe, what is this Umpa malate Stimela, appunto Stimela, il treno del carbone, suonato dal vivo a un festival jazz, anzi un festival jazz, un concerto famosissimo, un concerto tenutosi in Lesotho nel Natale del 70, del 76 insieme a Miriam Makeba. E appunto sentiva il pezzo, inizia e finisce con i suoni di questo treno del carbone su cui poi appunto Yukma Sekela ci mette sopra dei testi che stanno proprio a descrivere quello che erano le condizioni di vita dei minatori neri sudafricani e poi appunto ci innesta ulteriormente la propria tromba, ecco. E nel testo si percepisce chiaramente, si sente chiaramente anche il richiamo ai paesi vicini, ai paesi della linea del fronte, Zambia, Mozambico, Namibia e appunto Botswana, in cui Masekela, Hugh Masekela, si trasferisce, diciamo, definitivamente nel 1981, definitivamente, nel senso fino al fino appunto al crollo del regime dell'apartheid. Ricordiamo che Botswana era è tuttora il paese confinante, quello che ha più confini insieme alla più lunghezza di confine insieme alla Namibia, ma la Namibia, essendo allora un sotto il giogo sudafricano e quindi del governo razzista e fascista dell'apartheid, non era cioè, diciamo, vivere in Namibia era come vivere in Sudafrica. Quindi appunto Hugh Masekela si trasferisce in Botswana, poco lontano appunto dal confine sudafricano, dove crea una scuola di musica, la Botswana International School of Music, uno studio discografico, e in quel periodo inizia anche a fondere il proprio stile con elementi ulteriormente ancora più diciamo provenienti dal retaggio, dalla tradizione della musica dell'Africa del Sud, soprattutto l'Ambakanga Zulu, che è una sorta di jazz molto più ritmato. E sempre in quel periodo, cioè il periodo, diciamo, degli anni 70, inizio anni 80, o meglio prima ancora di trasferirsi definitivamente in Botswana, gira in Liberia, in Ghana, nello Zaire, in Nigeria, dove appunto abbiamo detto precedentemente suona insieme a Fela Kuti, e tra l'altro nel 76 compone un altro dei suoi brani celebri, Soweto Blues, un brano sul massacro degli studenti del 76, che poi successivamente verrà ripreso e reinterpretato tante tante volte da Miriam Makeba. E sempre in quel periodo compone un altro brano che dà il senso, diciamo, di quello era sotto certi aspetti è tuttora la vita dei neri in Sudafrica. Il brano si intitola Marketplace, il mercato, il posto del mercato, la piazza del mercato, e ve lo facciamo ascoltare. Hugh Masekela, Marketplace. Purples and the yellows and all the shades sparkling in the skies in the rainbows of the Congo. Cornrow hair in a million braids, eyes lit up like the northern star, a smile that reads a spell when she goes to look into my eyes. She's turning me on with fever as she passes me by. Hey, mama. Suddenly I'm walking right beside her, really turning her on. When I tell her I'm going wherever, she'll be going when she leaves the market. Right away, I go to carry her bag of vegetables. Hey, now we walk towards the road that goes down to the village. Ooh, mama, she locks the door that leads into her hut. Hey, baby, wonder mama, yo. The talking drums and the xylophones, all the tam-tams and the doombas, they were waiting. We had a night time of ecstasy, and we woke up to the roar of the lion. She had to rise to the marketplace, to her vegetable. E continuiamo il discorso sul lago Naivasha del Kenya, che circa ancora 20 anni fa i fiori appunto che sono coltivati intorno a questo lago venivano prodotti da centinaia di piccoli produttori e fornivano i mezzi di sostentamento a centinaia di famiglie. Adesso invece sono prodotti da poche multinazionali come la Magana Flowers Kenya. L'industria floricola è stata il motivo principale che sta dietro all'accordo di partenariato economico firmato dal Kenya con l'Unione Europea nel 2014. Gli attivisti sociali europei giustamente hanno lottato contro il trattato transatlantico sul commercio e investimenti, il famoso TIP, che gli Stati Uniti volevano imporre, temendo che appunto potesse aprire la strada a un controllo globale sulla economia europea e indebolire la loro sovranità. Eppure non tanti sanno che è più di 40 anni dalla convenzione appunto di Lomé del 1975 che l'Africa subisce aggressioni simili al TIP. Infatti il Kenya, che ha firmato questo APE nel settembre del 2014, l'ha fatto su forte pressioni delle multinazionali dei fiori. Ma mentre il governo del Kenya si è arreso all'Europa, i suoi cittadini cercano di reagire. Nel 2016 i piccoli produttori keniani hanno presentato una causa contro il proprio governo, affermando che gli APE, appunto questo trattato economico, mettono a rischio il sostentamento di milioni di agricoltori. Il 30 settembre del 2017 l'Alta Corte del Kenya si è pronunciata a favore dei piccoli produttori, consigliando al governo del Kenya di stabilire un meccanismo per coinvolgere tutte le parti interessate nei negoziati e incoraggiare un dibattito sulla questione del fatto che tutto è in mano a poche multinazionali. Un po' di dati: praticamente ogni giorno dal lago Naivasha vengono estratti circa 20.000 metri cubi di acqua per l'azienda floricola e quindi il lago sta morendo. Ufficialmente la superficie è di 130 km quadrati, ma già nel 2006 si era ridotta di circa il 75% rispetto al 1982. Nel 2015 Kenya ha esportato 124.800 tonnellate di fiori per un valore di circa di più, diciamo, di 500 milioni di dollari. E l'OMC si è congratulata con il Kenya per aver trovato finalmente la propria posizione nella catena del valore globale. Peccato che il rapporto di disuguaglianza sta peggiorando, i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Tutto questo mentre a Nairobi, lo scorso dicembre, c'è stata la 10ª conferenza ministeriale dell'OMC, mentre il precariato naturalmente è rimasto altrove, nella periferia di questa città. E abbiamo lasciato, ripercorrendo la vita di Hugh Masekela, abbiamo lasciato in Botswana, dove appunto si stabilisce nell'81 e dove ci rimane fino alla fine del regime dell'apartheid, ma da cui molto spesso è costretto ad allontanarsi proprio perché il regime sudafricano, tramite il proprio esercito, molto spesso invade Botswana. Ricordiamo, la capitale di Botswana, Gaborone, è vicinissima proprio al confine, proprio per rappresaglia, per eliminare i covi dei comunisti, come loro li chiamano, e fra questi covi comunisti c'era appunto la scuola di musica e, diciamo, tutto il circuito sociale, musicale e politico aveva creato Hugh Masekela. E durante questi anni '80 compone anche Bring It At Home, che è un pezzo dedicato a Nelson Mandela, è appunto composto nell'ambito delle iniziative per la liberazione di Madiba, di Nelson Mandela, e che è proprio la base di quello che sarà poi il successo Free Nelson Mandela. E partecipa anche al mega concerto per 70 anni di Mandela, pubblica anche la propria autobiografia, seppure successivamente, e appunto alla fine del regime dell'apartheid rientra immediatamente in patria, proprio per promuovere le iniziative sociali, in particolare a favore delle scuole e degli studenti di Soweto. Ricordiamo che Hugh Masekela era nato in una cittadina vicinissima a Johannesburg, e quindi Soweto e Sophiatown, che sono i luoghi, diciamo, più importante dal punto di vista culturale e politico, erano quelli in cui sia precedentemente, prima del massacro di Sharpeville, sia successivamente, dopo la fine del regime dell'apartheid, Masekela appunto impronta, mette su le proprie iniziative a scopo sociale. E in questo nuovo con queste nuove iniziative stabilisce anche rapporti con le nuove generazioni della musica sudafricana, in particolare con gli interpreti e gli artisti dell'hip hop. Collabora anche con il DJ Black Coffee, che è una star della musica drum and bass sudafricana. Ricomincia appunto a suonare i suoi primi concerti, anzi i suoi primi anni dal 94, appunto dalla fine del regime dell'apartheid, in due anni e mezzo fa oltre 400 concerti, che registrano quasi tutti, se non tutti, tutto esaurito. Vi facciamo ascoltare District 6, che è un pezzo appunto composto da Hugh Masekela, dedicato al quartiere di Città del Capo, che un po' come Sophiatown, il quartiere diciamo bohemian, il quartiere sociale e artistico più importante da questo punto di vista, e che fu raso al suolo dal regime dell'apartheid, proprio per da un lato farci una mega speculazione edilizia e nello stesso momento impedire la crescita, l'evolversi di una socialità e di una politica, delle organizzazioni politiche che si organizzavano dal basso, che lottavano contro il regime dell'apartheid. E quindi questo è District 6, un live in concert insieme a Sibungile Kumalo, che è una cantante jazz molto importante, molto riconosciuta in patria anche lei di Soweto, che appunto qui canta insieme al brada Hugh Masekela. Mm-hmm. questo era il nostro omaggio al brother Hugh Mazzucchelli, che ci ha lasciato alcuni giorni fa, e che dopo aver attraversato tutta la traiettoria sociale, politica e musicale del jazz del Sudafrica, e dopo aver avuto rapporto alle nuove generazioni, alla musica sudafricana, agli artisti hip hop, house, drum and bass, era ritornato ed è ritornato a suonare gli standard jazz e tutti i suoi pezzi aveva composto negli anni precedenti, e l'ha fatto anche con alcuni amici dei tempi in cui insieme frequentavano le scuole musicali, le scuole jazziste sudafricane, e avevano formato insieme i Jazz in Africa e i Jazz Epistole, e quando il periodo in cui appunto Mazzucchelli sognava di diventare un grande jazzista, quello è poi in effetti è stato, e oltre a ciò un combattente, un continuo combattente durante tutta la sua vita, un combattente contro l'apartheid. Sì, prima di lasciarvi vi ricordo il sito wombat.noblogs.org. Naturalmente potete trovare tutte le puntate passate di Uru, che ormai cominciano ad essere parecchie, e di tutte le altre trasmissioni. Potete seguire Uru su Twitter, uru_rw, mentre quello della radio è Radio Wombat Fi, e posta wombat@insiberia.net per comunicare con noi. Mi raccomando, ascoltate Radio Wombat, ci sentiamo la prossima settimana. L'ultima cosa, le nostre repliche, vi ricordo che vanno in onda la domenica alle 23 e il lunedì mattina alle 8:30, quindi se volete ascoltarci sintonizzatevi sempre su Radio Wombat. Alla prossima, ciao ciao!